Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. E se il disinfettante del futuro fosse a base di grafene? Buonasera da Maurizio Meris. Abbiamo parlato tante volte di questo materiale che si sta dimostrando incredibilmente versatile, formato da foglie di carbonio spessi un solo atomo, ottenuti la prima volta sfogliando la mina di una matita. Ebbene, una ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con l'ISC CNR di Roma, ha mostrato che il famoso nanomateriale in forma di gel potrà essere impiegato per rimuovere per esempio funghi e batteri come quelli che sono presenti in ospedale. I risultati di questo studio, che è stato finanziato dal programma europeo Vanguard, sono stati presentati in un convegno internazionale a Los Angeles e noi ne parliamo con uno dei principali autori, Claudio Conti, direttore dell'ISC, cioè l'Istituto Sistemi Complessi del CNR. Buonasera. Buonasera. Sì. Allora, senta, voi avete individuato tre diversi effetti che sommati rendono il grafene un potente disinfettante. Partiamo da qui. Sì, allora, noi siamo rimasti abbastanza sorpresi dell'attività, dell'effetto che il grafene aveva sui batteri. Abbiamo approfondito tramite tecniche di microscopia e abbiamo scoperto che appunto il grafene ha un effetto triplice. Uno è quello di proprio bucare e forare i batteri, per esempio l'Escherichia coli appare un palloncino, viene letteralmente forato e si sgonfia da questo materiale sottilissimo che possiamo immaginare come delle lamette presenti, esatto, all'interno per esempio di un disinfettante, dell'acqua. Un altro effetto che ha è quello di ricoprire completamente i batteri come se fosse una coperta e questo li isola dal mondo esterno, per cui non possono più scambiare nutrienti eccetera e muoiono. E un terzo effetto è quello più probabilmente chimico, per cui vengono ingeriti dal batterio o dal virus, dal fungo e che si strozza, diciamo così. Esatto, si strozza, esatto, sì. E quindi, ecco, com'è nata questa ricerca? Perché appunto, lei diceva anche prima, noi eravamo persino un po' scettici, poi ci sono le mode nella scienza, no? E sì, per esatto, cui si trovano finanziamenti e si seguono anche un po' questi, no? E che cos'è successo? Sì, noi come scienziati non vediamo l'ora di dire che gli altri hanno torto e invece questa volta siamo rimasti sorpresi perché abbiamo provato a lavorare sul grafene e cercare di capire se effettivamente fossero avere queste proprietà particolari. In realtà il nostro obiettivo iniziale era un po' diverso, noi volevamo usare il grafene per realizzare delle superfici rugose come la pelle dello squalo che sono note avere una proprietà antibatterica, quindi abbiamo cominciato a studiare queste interazioni e abbiamo scoperto che effettivamente i batteri venivano uccisi dal grafene e quindi abbiamo approfondito e abbiamo scoperto queste cose, per cui ci siamo resi conto che non era necessario per forza fare una superficie, bastava che ci fosse un po' di ossido di grafene per la precisione che andava in giro per uccidere i batteri all'interno, per accoltellati esempio, sostanzialmente. Esatto. Sì, un'azione prevalentemente di natura fisica del grafene. Ecco, tra l'altro appunto questo è un aspetto interessante perché come è ben noto c'è il problema della resistenza che insorge, esatto, nei microorganismi, sì. Col tempo per, sì, esempio quella agli antibiotici ha raggiunto dei livelli molto preoccupanti. Sì, però esatto, qui non è un'azione chimica strettamente, che quindi può essere un vantaggio. È estremamente affascinante perché se uno riesce a trovare un modo per andare sulla scala nanometrica o micrometrica e agire fisicamente sui batteri o su altri, appunto sui funghi, cambiano le cose, perché un'azione fisica non può essere superata o battuta da un'evoluzione del batterio, perché se c'è un oggetto che distrugge l'animale, sì, certo, poi difficilmente questo riesce a scoprire un modo per sfuggire. Certo. E quindi si tratta di inventarsi delle nanomacchine, tra virgolette, che vanno in giro e uccidono i batteri. Noi non abbiamo fatto questo, però abbiamo scoperto che il grafene da solo ci si avvicina parecchio. Ci si avvicina. Tipo. Quindi ci ispira ad andare avanti in questa direzione. Ecco, senz'altro diciamo il grafene è applicabile in campo medico, nel senso si è verificato ormai che non ha degli effetti biologici in sé pericolosi. Sì, l'ossido di grafene, però sì, è compatibile, è verde, non crea inquinamento. Però ecco, voi in questo momento non è che lo state somministrando, no, come, così, no, come al posto, no, dell'antibiotico. A che, no, punto siete di questo tragitto che parte dalla ricerca di base, dalle ricerche sul grafene, ma prima di arrivare sugli scaffali di una farmacia, insomma, ci vorrà un po' di tempo. Sì, a che, esatto, punto siete? Sì, allora, per l'applicazione proprio sugli esseri umani è necessaria tutta una serie di protocolli di sperimentazione che adesso si avvieranno anche grazie alla nostra collaborazione con l'università cattolica. Ci sono però tutte altre applicazioni per cui possiamo immaginare un impatto in tempi più rapidi, perché per esempio uno può spalmare il grafene su protesi o anche sui muri degli ospedali per renderli più resistenti alla presenza e alla proliferazione di batteri. Ecco, per la precisione non abbiamo detto quanti ne fanno fuori di questi animaletti? Beh, abbiamo scoperto, dipende dal tipo di animale in realtà, sì, l'effetto, però siamo su fattori di killeraggio del 50%, quindi anche la metà. Poi dipende anche dal tempo, cioè col tempo questa azione diventa via più pronunciata, e poi se uno magari di nuovo ridipinge il muro dopo un po' di tempo la rinfresca. Certo, gli dà una nuova mano, insomma. Esatto, sì. Va bene. È interessante, noi siamo molto contenti di questi risultati. Va bene, grazie Claudio Conti. Benissimo, grazie a voi, buonasera. D'accordo, anche per questa sera è tutto, appuntamento a domani.